Italia in controluce, la politica nel tunnel. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Giorgio Napolitano accelera i tempi per uscire dallo stallo politico, oggi tutte le consultazioni, questa sera poi il probabile incarico per un governo di larghe intese. La domanda ai nostri ascoltatori al 349-238-6666 è la seguente: governo tecnico o politico, i partiti devono metterci la faccia e se sì chi deve guidare l'esecutivo? Enrico Letta, Matteo Renzi, Angelino Alfano o una figura più distaccata e vista come un uomo di Stato come Giuliano Amato? Aspettiamo i vostri sms al 349-238-6666. Ma veniamo subito alle consultazioni in corso al Quirinale. Per noi c'è Alessandra Schepisi. Allora Alessandra, il Presidente della Repubblica punta a fare presto. Questa mattina ci sono già tante indicazioni. Eh sì, l'imperativo è fare in fretta, arrivare ad un governo in tempi rapidi, per questo che qui al Quirinale i tempi davvero sono serrati. L'incarico al nuovo Premier potrebbe arrivare anche questa sera, il Premier incaricato a quel punto potrebbe dopo un rapido giro di consultazioni salire al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Il governo potrebbe giurare anche il 25 aprile, nel fine settimana invece possibile, si parla di un possibile voto di fiducia in Parlamento. Tutto questo ovviamente se non ci saranno ostacoli sul cammino della formazione del governo. La strada, ricordiamo, in buona parte già tracciata da Napolitano nel suo discorso di ieri, un nuovo esecutivo che deve avere come programma le linee guida dei saggi, le riforme istituzionali, interventi rapidi sul fronte dell'economia. Quanto al Toto Nomi, in pole position c'è sempre Amato, ma dalla direzione del PD potrebbe anche arrivare la candidatura di Renzi. Il primo faccia a faccia questa mattina è stato come da prassi con i presidenti di Senato e Camera, Grasso e Boldrini, che non hanno rilasciato dichiarazioni, poi a seguire i rappresentanti delle diverse forze politiche, partendo da quelle minori, Gruppo Misto, Autonomia, Fratelli d'Italia. L'ultimo della mattina è stato Sell, massimo rispetto per Napolitano, ha detto adesso Vendola, ma no ad un governo di larghe intese. Sentiamo allora per Sell Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto del Senato. Nostra indisponibilità alla fiducia a un governo di larghe intese, perché riteniamo che questo Paese ha bisogno appunto di un segno vero di cambiamento e non si può certamente costruire il cambiamento e un'uscita dalla grave crisi che il Paese sta attraversando dando vita a un governo che vede la presenza di coloro che portano la gran parte della responsabilità di questa crisi. E no ad un governo di larghe intese anche da parte di Fratelli d'Italia. Sentiamo Giorgia Meloni. Abbiamo ribadito al presidente Napolitano una posizione che l'Italia ormai conosce in modo chiaro rispetto alla indisponibilità di Fratelli d'Italia sulla ipotesi di un presunto governo delle larghe intese, cioè di un governo che avesse la presunzione di mettere insieme persone e storie diametralmente opposte, molto distanti tra loro, perché abbiamo già visto con l'esperienza del governo Monti quanto sia difficile immaginare le risposte coraggiose che all'Italia servono con un governo i cui rappresentanti, i cui membri della maggioranza la pensano in maniera diametralmente opposta tendenzialmente su tutte le questioni più importanti. Si rischia un eterno compromesso al ribasso che non è quello di cui l'Italia ha bisogno. Questo non vuol dire che Fratelli d'Italia non sarà assolutamente disposta a votare dei provvedimenti che anche da questo governo dovessero arrivare e che noi dovessimo considerare utili e giusti per gli italiani. Apertura e disponibilità invece ad un governo di cambiamento. Sentiamo cosa ha detto anche su Renzi Ignazio La Russa. Abbiamo detto che esamineremo con grande attenzione quello che succederà e vedremo se ci saranno le condizioni di grande cambiamento rispetto alla prima e seconda Repubblica, quello che nel nostro piccolo potremo fare per aiutare l'Italia ad avere una risposta di cambiamento che si aspetta. I nomi non ne abbiamo fatti, ma certamente Renzi è uno di quelli che risponde a questa tipologia, ma nomi non ne facciamo neanche adesso e non basta un nome solo. e nel pomeriggio saliranno i big. Si parte alle 16.30 con la Lega, poi Scelta Civica, 5 Stelle, PDL, alle 18.30 il PD, per il quale andranno i presidenti dei gruppi Zanda e Speranza, ma la direzione del partito anticipata alle 16 potrebbe decidere se affiancare qualcun altro. Ancora incerta la posizione del Movimento 5 Stelle, che deciderà alle 14 se andare o meno. Dal Quirinale tutto, a te Vincenzo. E grazie ad Alessandra Schepisi dal Quirinale. Leggiamo qualche sms dei nostri ascoltatori. La domanda era chi vedrebbero bene alla guida di questo esecutivo, un esecutivo che probabilmente sarà politico. Avevamo fatto un po' di nomi: Renzi, Alfano, Enrico Letta oppure Amato. E allora no ad Amato, sì a Renzi, scrive un nostro ascoltatore. Poco fa Amato, interrogato su patrimoniale e prelievo conti correnti, ricordiamo che Amato nei primissimi anni 90 fece un prelievo forzoso sui conti correnti, ha detto no a tutte e due le ipotesi. Ancora Renzi, ma senza limitazioni, un altro ascoltatore. Propongo Silvio Berlusconi. Renzi per cambiare veramente, Carlo da Torino. Matteo Renzi, governo politico di larghe intese. Monti potrebbe concludere il lavoro iniziato, scrive Carla. Tecnico con Monti, quindi un esecutivo, meglio un esecutivo tecnico a guida Monti oppure politico con Renzi, scrive la da Como. Quindi è un argomento, vedo che questo interessa tantissimo ai nostri ascoltatori, le opinioni sono diverse. Il nome più gettonato sembrerebbe al momento quello di Matteo Renzi, ed è un tema questo di cui si parlerà anche alle 16 nella direzione del Partito Democratico, una direzione che arriva dopo giorni caldissimi dell'elezione del Presidente della Repubblica, che hanno visto il Partito Democratico sprofondare tra veti incrociati e franchi tiratori, situazione che ha portato all'azzeramento di tutta la segreteria, Bersani in testa. Le domande a questo punto sono tante: chi guiderà il partito sino al prossimo congresso, chi del PD farà parte del governo di larghe intese che va profilandosi, che ruolo giocherà Renzi in tutto questo, e sono tanti nel PD che lo vedono già a Palazzo Chigi. Quanto al Popolo della Libertà, la posizione di Berlusconi non cambia, governo di larghe intese o ritorno al voto, tutto dipende, spiegano, dal PDL, dalla tenuta del PD e cosa deciderà di fare. Chi di sicuro non parteciperà al nuovo esecutivo è il Movimento 5 Stelle. Valuteremo provvedimento per provvedimento, dice il vicepresidente della Camera Di Maio. Nuove esternazioni intanto di Grillo, lo abbiamo ascoltato anche nel nostro giornale radio. La rielezione di Napolitano equivale a un subdolo colpo di Stato, dice Grillo alla tedesca Bild. I partiti lottano per la sopravvivenza, non siamo noi a sabotare i partiti, sono loro a sabotare se stessi, aggiunge il leader del Movimento 5 Stelle. L'Italia in autunno va in bancarotta, dice ancora Grillo, sarei contento se i tedeschi ci invadessero. Vediamo altri sms, no ad Amato, sì alla cancellieri Alice. Beppe Grillo, visto che con la caduta del PD è ora il primo partito d'Italia, un altro ascoltatore. Amato, non credo che sia molto amato, qui abbiamo il gioco di parole di Margherita. Amato, punto interrogativo, ma scherziamo, no, ad un altro parassita addirittura, scrive Walter. Su Amato c'è il no secco della Lega Nord. Maroni su Twitter: il no della Lega al trapassato remoto della politica italiana è netto e non negoziabile, così la Lega Nord. Queste un po' tutte le posizioni delle forze politiche presenti in Parlamento, e ci avviamo a chiudere la puntata facendo ascoltare il passaggio a loro dedicato ieri dal Presidente della Repubblica Napolitano nel suo discorso di insediamento. Fate presto, quello che serve al Paese è il ragionamento del Capo dello Stato, altrimenti ascoltiamo Napolitano. Ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a assurdità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Queste dunque le parole di Napolitano nel suo lungo intervento di ieri di insediamento qui a Montecitorio, 35 minuti, un intervento molto applaudito, con un Napolitano visibilmente commosso. Tanti passaggi del Presidente della Repubblica, quello in cui ha sollecitato le forze politiche a mettere mano alla legge elettorale, una legge elettorale che ha portato allo stallo attuale, ha ricordato Napolitano, eppure ha aggiunto sempre il Capo dello Stato. Stato aveva avvisato i partiti quando Monti prese la guida del governo tecnico, lui si occuperà dell'economia, voi occupatevi almeno della legge elettorale, poi così non è stato. Un altro invito di Napolitano al Movimento 5 Stelle, bene la rete, bene tutte le manifestazioni, ma il Parlamento resta sovrano. Queste insomma le varie posizioni politiche, e continueremo a seguire le consultazioni nel pomeriggio nei nostri giornali radio. Per Italia in Controluce è tutto, un saluto da Vincenzo Miglietta.